Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Dal 23 al 25 marzo del 1848. Ancora una puntata speciale del Gazzettino del Risorgimento. All'indomani della cacciata degli austriaci da Milano, mentre a Venezia si è deciso di proclamare la Repubblica, in Lombardia la scelta è stata per una richiesta di aiuto ai piemontesi, che è arrivata. Torino ora è in guerra con Vienna. Il reportage dal fronte. La decisione è stata rapida ed è stata presa quando è diventato chiaro che Milano sarebbe stata conquistata dagli insorti. Carlo Alberto ha ricevuto fortissime pressioni popolari e dalla stampa. A pesare, tra l'altro, è stato un accorato articolo scritto dal conte di Cavour sul suo giornale, Il Risorgimento. Le esitazioni, il dubbio, gli indugi, ha scritto, non sono più possibili e sarebbero la più funesta delle politiche. Così il re gli indugi li ha rotti. Per suo espresso ordine sono state cucite delle nuove bandiere. Sono verdi, bianche, rosse, gli stessi colori che da due giorni sventolano sul duomo del capoluogo lombardo. E in mezzo c'è lo scudo dei Savoia. Le prime sono state consegnate alle cinque divisioni che hanno varcato il fiume Ticino per dirigersi in Lombardia e che presto saranno seguite da altre. Il grosso dell'esercito sardo-piemontese, 30.000 uomini in tutto, arriverà nelle prossime ore. Il lavoro dei sarti torinesi è febbrile da quando il re ha voluto indicare i dettagli del nuovo vessillo nello stesso proclama con il quale chiama alle armi i cittadini del Lombardo-Veneto, come se ce ne fosse bisogno, e annuncia di fatto la dichiarazione di guerra all'Austria. Addio, mia bella, addio. In tutta Italia si raccolgono volontari. Il canto che sentiamo è stato composto da Carlo Bosio e accompagna chi parte dalla Toscana. Mentre Pio IX, il tanto acclamato Pio IX, non è per nulla estraneo a queste vicende. Ci è arrivata notizia che sotto i suoi auspici a Roma è già iniziato l'arruolamento di volontari e deciso il capo della spedizione che andrà in soccorso ai Savoia e ai Lombardi. È esattamente un generale piemontese, Giacomo Durando, di Mondovì, reduce dei moti del 31, e il suo aiutante di campo è Massimo D'Azeglio. Proprio per il suo ruolo il Papa non si è voluto sbilanciare. Ufficialmente i 10.000 uomini devono andare a presidiare il confine. Fonti diplomatiche torinesi hanno riferito le parole esatte del Papa di fronte alle richieste d'aiuto. Se potessi ancora firmare Mastai, avrebbe detto, prenderei la penna e fra pochi minuti sarebbe fatto, perché anche io sono italiano, ma devo firmare Pio IX. Parole poi smentite prontamente dall'ufficio stampa Vaticano, che molti però prendono per vere. Simone Spezia, Il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ed è tutto. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciarci un commento o farlo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Paolo Piacenza, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Simone Spezia, una buona giornata.